Eccoci tornati. Allora, siamo a Mondeggi, siamo nel pomeriggio di Mondeggi, sono iniziati i tavoli tecnici e sfruttiamo questo momento di pausa per approfondire in più la storia che abbiamo sentito oggi di Jérôme. Et nous voilà de nouveau ici, en direct de la ferme de Mondeggi. C'est l'après-midi, il y a les tables techniques en cours et on en profite pour approfondir l'histoire de Jérôme Laronze qu'on a entendu auparavant. Come avete sentito, abbiamo una nuova lingua, il francese. Non era un'interferenza. Comme vous avez entendu, nous avons une nouvelle langue, le français. Ce n'était pas une interférence. Ma intervistiamo adesso Lucy, che è la cugina di Jérôme, e ci racconterà di più di lui. Maintenant, nous interviewons Lucy, qui est la cousine de Jérôme, et qui va nous raconter un peu plus sur lui. Quindi abbiamo il nostro traduttore, Riccardo. No, scusa. Federico, scusa. Problemi di memoria. E poi abbiamo Lucy. Ciao, benvenuta. E noi abbiamo il nostro traduttore, Federico, e Lucy, benvenuta. Merci. Salut. Ok. Grazie. Bene. Come siamo arrivati a sapere di Jérôme? A parte, ovviamente, il ricordo. Oggi, durante una sintesi del tavolo tematico sulla libera trasformazione, un compagno che ci raccontava di quel tavolo ha portato l'esempio di Jérôme come esempio di qualcuno che appunto voleva smettere di essere bloccato da quelle leggi che non gli permettevano di fare una cosa che si fa da sempre, no? Et comme on a découvert l'histoire de Jérôme, et aujourd'hui, suite au compte-rendu d'un camarade qui a participé à la table thématique sur les transformations libres, il nous a raconté l'histoire de Jérôme comme quelqu'un qui refusait de se soumettre à tout un tas de règles imposées. Et... Parlando di quello, abbiamo capito che spesso alcune regole sono solo fatte solamente per mettere in crisi la produzione dei piccoli produttori e avvantaggiare i grossi produttori e la grande distribuzione. Souvent, ces normes sont conçues pour mettre en difficulté les petits paysans et pour avvantager les grands lobbies agro-industriels. Quindi la prima domanda che ti faccio, Jérôme cosa pensava di questo? Si era già reso conto, no? Del fatto che fosse tutto un sistema? Donc la première question que je te pose c'est Jérôme s'était déjà rendu compte de tout ça et que donc ça appartenait à un système entier? Alors, ouais, moi je le connaissais, enfin on parlait pas forcément de l'agriculture et tout ça, mais ce que je savais et ce que j'ai su par la suite, c'est qu'il avait compris que toutes ces normes, elles servaient pas à grand chose à part à protéger la santé des industriels et à écraser les petits paysans. Nous discutavamo per forza di agricoltura con Jérôme, ma ciò che ho capito scavando un po' e a posteriori è stato che aveva capito che si trattava di norme che avevano lo scopo di mettere in difficoltà i piccoli contadini. Allora, di cosa parlavate invece con Jérôme? Ricordo un ricordo più familiare, più felice, allegro. De quoi est-ce que tu discutais avec Jérôme comme souvenir familial un peu plus heureux Il me parlait d'apiculture. En fait, il aimait bien faire pas mal de choses. Il avait fait du bois, il avait acheté des abeilles. Il y a une période où il avait des moutons et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de trucs qu'il essayait sans que ce soit son truc des fois, mais il faisait des tests. Et puis, on parlait un peu de littérature, des trucs culturels qui nous plaisaient à tous les deux. Parlavamo di apicoltura, di bosco, di pecore, di alcune attività che aveva, in cui si era lanciato senza che fossero la sua attività principale, e anche di letteratura, tematiche che piacevano ad entrambi. Lui aveva scelto queste attività, cioè aveva fatto un percorso di studi e poi aveva scelto queste attività, oppure era un'attività che aveva ereditato dalla famiglia? Est-ce que, come il est arrivé à l'agriculture, est-ce qu'il a hérité la ferme familiale, ou est-ce que, suite à des études, il s'est reconverti En fait, il a fait des études agricoles et il a repris la ferme familiale, qui était là depuis plusieurs générations. Si ha seguito gli studi agricoli e ha recuperato in effetti la fattoria di famiglia nella stessa famiglia già da varie generazioni. Perfetto. Quindi è proprio la sentiva come una missione, forse anche recuperare un'eredità. Du coup, probablement il la sentait aussi come une mission de récupérer un héritage. Oui, je pense, et peut-être que c'était pas la chose qu'il voulait non plus, je sais pas. Sì, probabilmente, ma forse non voleva nemmeno questo. Cosa allora? E qua allora? No, ma je sais pas, enfin, je veux dire, pense qu'il y a plus une pression, enfin, surtout à l'époque où il l'a reprise, il y avait une pression parentale et familiale qu'il fallait que ce soit ancestral et que ça perdure. C'era una pressione familiare riguardo la continuità della fattoria, dell'azienda agricola, e che possa perdurare, visto che durava già da generazioni. Ok, quindi non era diciamo una missione scelta come da noi, come può essere Geromino. E la cosa che ci sorprende, questa ti faccio una domanda più generica, questa reazione così forte e così persecutoria verso le persone proprio in Francia. Noi dall'Italia in genere vediamo la Francia come un posto più democratico, più libero, più civile, vorremmo dire, nel senso di rispetto dei diritti e cose del genere. Come si arriva a essere così persecutori? Qual è il... Depuis l'Italie, on a une image de la France comme d'un pays plus libre, plus démocratique, plus civil. Et comment on peut en arriver jusqu'à un tel niveau de harcèlement? Je pense qu'il n'y a pas que l'image extérieure qui est faussée. À mon avis, si on interroge quelqu'un, un citoyen, un urbain à Paris, on lui demande s'il a conscience de ce qui se passe dans le domaine agricole et dans les contrôles, il ne sait pas non plus. Et il n'imagine pas qu'ils viennent avec une dizaine de gendarmes faire des contrôles sur des fermes avec des gens qui sont à la base pas dangereux et qui n'ont pas de raison de l'être. Et je pense que les gens s'en rendent pas compte. Enfin. Penso che questa immagine fuorviante non sia soltanto dall'estero e da fuori. Abbiamo un attimo un martellamento, facciamo una pausa. Un petit coup de marteau. Ok, riprendiamo. Ma si tratta di un'immagine falsata anche dall'interno, nel senso che se immaginiamo di intervistare, chiedere ad un parigino urbano, se immagina che ci possa essere delle situazioni simili per cui si possa subire un controllo con 10 gendarmi in campagna, probabilmente nessuno lo immaginerebbe, sarebbe al corrente di ciò. È come se in campagna si facesse tutto più di nascosto, cioè ci sono meno riflettori. Come se alla campagna tutto era un po' più caché, il y avait moins de réflecteurs de mass media. Je pense que l'agriculture dont on parle en France, c'est l'agriculture des industriels, et la petite paysannerie, on n'entend pas parler. Penso che l'agricoltura di cui si parla in Francia sia l'agricoltura degli agroindustriali, ma non si parla dell'agricoltura contadina. Io tanti amici miei in Italia spesso vengono a fare la raccolta in Francia. scelgono proprio di venire in camper e di unire, diciamo, la visita della Francia, quindi un po' di, e fare anche la raccolta, e effettivamente raccontano l'incontro con persone diametralmente diverse. Puoi trovare un'azienda agricola che ti prende e ti schiavizza, oppure trovi il produttore, il piccolo produttore che ti accoglie come un figlio in casa. En effet, plusieurs amis autour de moi me racontent leur expérience en France. Et qui partent pour vendanger ou pour récolter les fruits en France et qui tombent sur des fermes et des expériences diamétralement opposées. On peut tomber sur la grande usine agricole avec la pire exploitation, comme sur, en effet, la petite ferme familiale, conduction naturelle, bio, où t'es traité comme si t'étais un fils, une fille. Je suis d'accord que, ouais, ça, à mon avis, il y a des différences donc entre les grandes industries agricoles et les petits paysans. Et qu'à mon avis, la pression administrative et la pression des contrôles, elle est bien plus présente chez les petits que chez les gros. Et que c'est pas forcément significatif, parce qu'on sait tous que la nourriture industrielle, c'est pas la meilleure. Sicuramente c'è un fossato tra i grandi agricoltori e i piccoli contadini. Et credo che ci sia molta più oppressione nei controlli amministrativi contro i piccoli contadini, nonostante sappiamo tutti che l'alimentazione di origine industriale, agroindustriale, non è sicuramente la migliore. Ti faccio una domanda, Lucy, più tua. Adesso come vivi, dopo quello che è successo, come vivi il rapporto con il tuo impegno nel collettivo, diciamo, ma anche nella visione delle cose, nella visione politica delle cose? C'è un senso di rivalsa, oppure prendi atto che sì, bisogna fare qualcosa, ma come? E maintenant une question plus personnelle, Lucie. Sì. Suite à ce qui s'est passé, comment tu vis ton engagement, par exemple, dans le collectif, et comment ça change éventuellement ta vision des choses? Je pense qu'avant, j'avais pas la maturité pour comprendre tout ça. J'en ai peut-être pris un peu trop vite, mais c'est vrai que du coup j'ai plus un engagement. Je sais pas si on peut parler d'engagement politique, mais peut-être que oui. Et donc oui, j'ai plus d'engagement avec le collectif contre les normes, avec, j'ai essayé de m'intéresser à ça, même si du coup je suis un peu nouvelle dans le milieu et que j'essaye d'apprendre et de voir. Prima non ero particolarmente impegnata, ma sicuramente ho preso coscienza in un colpo solo e probabilmente troppo velocemente, e sì, probabilmente ora possiamo dire che sono impegnata politicamente nel collettivo contro le norme, e quindi sì, mi ha aiutato a prendere coscienza su tante questioni. Un ricordo bello che hai di Jerome e che ci vuoi lasciare, quasi fosse un quadro colorato che ci possa ricordare Jerome a oggi, che rimanga con noi. Un beau souvenir de Jerome que tu aurais envie de partager aujourd'hui avec nous, comme si c'était un joli tableau coloré. Je sais pas, on en a un petit peu quand même, heureusement. Ce serait peut-être un où on était tous les deux sur le mur de son jardin et où on passait des heures à parler de tout et de rien, à essayer de refaire le monde. Ce ne sono tanti. Ad esempio, il ricordo di noi due seduti sul muretto della fattoria a discutere insieme per rifare il mondo discutendo. Bello, bel ricordo. Forza allora, continuiamo, cerchiamo tutti assieme con il collettivo e anche noi genuini, cioè noi qui a Mondeggi, di magari portare avanti le idee e le speranze di Jerome. Grazie Lucy. Un beau souvenir e speriamo di poter continuare come ça dans le collectif e avec les activités ici à Mondeggi, Junior Clandestino, e merci Lucy. Merci. Ciao. Grazie. Ciao.